Buongiorno da Radio Futuribile di Borgo Futuro. Siamo a Sant'Angelo in Pontano, sulle colline della Valle di Fiastra, e oggi vi parleremo di una storia che inizia lontano, ai piedi di un grande albero, fino ad arrivare, lo scoprirete presto. Buon ascolto, gentili ascoltatori e ascoltatrici. Sì, vi parliamo di un albero enorme, che ha una grandissima base chiatta, grassa, che con delle radici profonde, un albero che ha proprio un grosso culetto. E quest'albero si chiama Baobab. Ci piaceva tanto anche per la sua onomatopea piena di vocali. Wow. Questo Baobab che cresce in tanti paesi, io l'ho visto soltanto in Africa, però sicuramente esiste anche altrove, ha poche foglie, ma con quelle poche che ha, fa della grande ombra, le giraffe si mettono sotto a prendere l'ombra quando fa caldo, come oggi qui da dove stiamo trasmettendo. E questo baobab però a volte risulta anche un po' ingombrante, così tanto che può diventare una vera e propria casa, ma non solo, cosa positiva. Sì, una casa, una stanza, non so se conoscete il famoso detto come un elefante in una stanza. Ecco, oggi vogliamo provare a immaginare e a raccogliere le storie di chi spesso è sentito come un baobab in una stanza, in una aiuola, comunque in uno spazio che non sentiva suo, forse perché veniva da luoghi lontani, diversi, costretto a muoversi, o per scelta, o per necessità. Quindi Baobab è diventato, forse anche per questo, il nome di un centro, di una casa, di cui adesso parleremo. Sì, sono le storie che abbiamo raccolto in giro, le storie di persone migranti che è partito da lontano, e a partire appunto dai Baobab, che però li ha rivisti anche qui, li ha rivisti a Roma, in un centro sociale che presta assistenza a tutte le persone in maniera distinta per avere l'accesso ai servizi legali, ai servizi educativi, ai servizi essenziali per le persone che vengono discriminate in questo paese e che appunto sviluppano una serie di disabilità da diversi punti di vista. Rispetto alle cose che non possono fare, le cose che non possono apprendere, così come le diverse anche disabilità anche fisiche, le storie di tortura che ci hanno raccontato nelle carceri libiche, o le storie di menomazione per alcuni percorsi che ci sono stati nei tragitti. E quindi parleremo anche di disarmi, parleremo anche di memorandum Italia-Libia, parleremo insomma di tutto quello che confina le persone in uno stato illegale che non le consente di poter vivere in maniera dignitosa. Quanti giorni he vagado, quanta gente mi ha rubato, abbracciato. Tutto il tempo sto pensando che sono a otra edad, este nuovo paese, un mondo raro. È arrivato qui, non ho conosciuto la lingua, non ho conosciuto a nadie. È una cosa strana, ma in questo centro sociale, se mi ha dato cibo, un cibo nuovo che va, sabe bene, tiene un sabor buono, ma mi ha dato diarrea. E così ho apprendito la lingua, più improvvisando, ma mi ho sentito tutto il tempo strana. So strana. La legalità mi chiama illegale. E tutto il mondo qui che abita nel centro sociale è illegale. Ma ho conosciuto a questa ragazza che allora è mia amica e ha notato che non mi sento bene perché tengo diarrea. E mi ha invitato alla sua casa. Ahí he guardato una cosa hermosa, misteriosa, che mi ha permesso sentirmi come in la mia casa. Che ha sito la gente pensa? Che ha sito un gatto, una nonna? Mai no. Ha sito un baobab. Es preciso decir otra mentira. Vi siete mai chiesti cosa significa vivere in un baobab? Baobab. Io conoscevo, ma forse una leggenda, un'amica che ha fatto di questa casa, di questo albero, una dimora su uno dei grossi rami o delle grosse radici, e ora ci racconta forse come si è radicata lì. Nella mia casa c'è un baobab. È stato dipinto sul camino dalla mia amica Deda Artusi di Parma. Questo baobab non fa l'ombra che fa per le giraffe, ma fa calore. E quando la mia amica è venuta, lo ha visto e ha finito la sua diarrea semplicemente guardando questo baobab e sentendosi a casa, oltre che bello, mi è sembrato molto utile. Ma tutto questo ve lo racconteremo la prossima volta. Y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado.